Ho riscritto la storia di un figlio di Troia. L'odio innocente addolcisce la mente. Lo stomaco parla, sussurra di fame. La sete di strada, rara è la quiete. Fiero è lo sguardo, un leone che abbraccia un ariete. Tanti discorsi tra falsi trascorsi. Sentirsi potente in un campo di stolti. Odi le note dell'inno dei morti. Fratelli d'Italia, fratelli fin quando qualcuno non sbaglia. L'oro fantasma col nome amicizia. Quindi siamo poveri ma crepi l'avarizia. Schiavi del sistema, sinonimo giustizia. OSF, questo è l'acronimo. Lanciami Zava, l'orgoglio di un anonimo. Prova a fermarlo, ma finché c'ho voce e canto italiani. Popolo di ladri e di santi. Repubblica fondata sul sudore degli altri. Ma tengo strette le mie colpe. L'ambizione che mi frega come il gatto con la volpe. Ho perso l'amore per poi ritrovarlo dentro una canzone. È facile soffrire, ma dopo il primo pugno non sento più il dolore. Nato nel quartiere col nome del Signore. Ho fuoco in bocca perché viene dalle viscere. E chi è qui con me viene dalle viscere. Mettendoci il sangue finché non è vinta. Se tocchiamo il fondo per darci la spinta. C'è chi è sommerso ma vuole ancora spingere. Chi ha già perso e continua ancora a insistere. Viene dalle viscere la dedica di un branco. E qui andrà così finché non nevica sul fango. Italiano, schivo, senza tante pretese. Adottivo all'apparenza in sto cazzo di paese. Calabrese caldo, io uomo di parola. Pure Dio sa che se parlo è per una volta sola. Perdona pure Giuda se a parole prega tanto. E chi arranca se la suda, gli lasci solo il pianto. Un canto di sgomento che mi invade, già lo sento. Il ricordo di mia mamma, le sue lacrime, un lamento. Ed è passato il tempo, ma non decade il male. Da mia madre ho avuto esempio, stessa vita ora convale. Non vale ma va bene, la salita me la faccio. Però ne ho le palle piene, appese con un laccio. Un intralcio non conviene, se ti servo gli attributi. Se ti assalgono le iene, non serve che discuti. Ma reagisci ai loro insulti, capisci poi chi sono. Devi dargli i contributi, senza manco aver lavoro. Fratelli d'Italia, ma l'Italia è questa. Stato magna povero, e dopo lo contesta. La smania su di un popolo, in protesta sulla via. Guidato sul patibolo della democrazia. E se ho peccato ora da vivo, mi pento te lo giuro. In paradiso almeno un posto ce l'avrò di sicuro. O re onnipotente, accetta questo impuro. E veglia su di noi, i figli di nessuno. Implorando la mia voce, da lontano ti consumo. Io ti lascio in oratorio, col tuo fascio da vittorio. Incontrassi presidente, il mio saluto siciliano. Pugno chiuso, dita alzato, quel saluto da romano. Non sono il tipo con la faccia e col martello. Prendo in mano la coscienza, dopo cito Pirandello. La teoria dei tanti specchi ora funziona per i vecchi. Qui di Marco ce n'è uno, tanta carne e poco fumo. Ho il fuoco in bocca perché viene dalle viscere. E chi è qui con me viene dalle viscere. Mettendoci il sangue finché non è vinta. Se tocchiamo il fondo per darci la spinta. C'è chi è sommerso ma vuole ancora spingere. Chi ha già perso e continua ancora a insistere. Viene dalle viscere la dedica di un branco. E qui andrà così finché non nevica sul fango. Per tutta la gente che come me viene dal niente, dalle viscere. Se ho il fuoco in bocca perché viene dalle viscere. E chi è qui con me viene dalle viscere. Mettendoci il sangue finché non è vinta. Se tocchiamo il fondo per darci la spinta. C'è chi è sommerso ma vuole ancora spingere. Chi ha già perso e continua ancora a insistere. Viene dalle viscere la dedica di un branco. E qui andrà così finché non nevica sul fango.